Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Partita da Pordenone, un'indagine sugli investimenti in criptovalute, perquisizione della Guardia di Finanza, 6 indagati per l'ipotesi di truffa, coinvolti migliaia di cittadini. Allerta meteo della Protezione Civile fino alle 18 di domani, in arrivo temporali e forti piogge. Varsila, il pressing coreano per sbloccare i motori già pronti, l'industria regionale fra le aziende in crisi e le attenzioni delle multinazionali. Nuovi contagi Covid a quota 1246, tornano a salire tasso di positività e incidenza. Due writers seriali identificati a Trieste, secondo la polizia locale, sono gli autori di 650 imbrattamenti. Scuola Udine quasi pronta, la nuova struttura che ospiterà il Marinelli e servirà eventuali altri poli. Aquilei ha tanta musica giovane nello Young Festival che si apre questa sera. Folklore a Tarcento, il via al Festival dei Cuori. Sport Udinese a porte aperte, allenamento con il pubblico domani prima del debutto casalingo. Tuffi, grandi altezze, agli europei tocca ai triestini Cosetti e Barnaba. 7:19 minuti, 30 secondi di giovedì 18 agosto. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. Tempo in peggioramento in Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo che è in corso, è cominciata alle 6 di questa mattina e proseguirà fino alle 18 di domani. Ci sono già le prime precipitazioni nella fascia occidentale della regione per il fronte che porterà piogge intense e temporali anche forti. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 23 gradi, il mare è calmo e ha una temperatura di 24 gradi e mezzo, a Pordenone 21 gradi, a Udine 20 e mezzo, a Gorizia 19, a Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio sul Piancavallo e a Forni di Sopra 15 gradi e mezzo, a Sappada 14, sullo Zoncolan e sull'Ussari 14,5 e tornando sulla costa a Lignano e a Grado 23,5 con temperatura del mare a 26 gradi e 5 decimi. Per la giornata odierna l'ARPA Friuli Venezia Giulia prevede cielo in genere variabile, probabili in giornata rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere abbondanti, in particolare sulla fascia occidentale. Sulle Alpi soffieranno venti moderati da sud o sud-ovest. Perquisizione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza per l'indagine aperta dalla Procura di Pordenone sul caso criptovalute. Diverse migliaia i cittadini che hanno affidato importi anche cospicui a una società che doveva investirli appunto in criptovalute ma che ora non sarebbe più in grado di restituire i capitali. Al momento sono 6 gli indagati e le ipotesi di reato sono truffa aggravata ed esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. Dall'inizio di agosto diverse centinaia di persone che hanno investito nella prima criptovaluta italiana New Financial Technology, che prometteva guadagni mensili del 10%, temono per il capitale investito. La società, che opera tra Londra e Dubai e il Veneto e che con un video del giugno 2022 lanciava la propria criptomoneta, ha comunicato ai clienti che per problematiche interne non previste sta effettuando un riassesto, tutelando il capitale depositato dei clienti e programmando una restituzione dello stesso. Riassesto e restituzione sulle quali vuole vederci chiaro anche la Procura di Pordenone, che ha aperto un'indagine preliminare in merito alle vicende legate alla società estera denominata appunto New Financial Technology, in seguito ad una approfondita informativa della Guardia di Finanza di Pordenone. Sono state eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari in provincia di Pordenone, in provincia di Treviso e in altre località del territorio nazionale, constatando, scrive in una nota stampa il procuratore capo di Pordenone, Raffaele Tito, la probabile già avvenuta sparizione di gran parte dei documenti e di altre utili informazioni. Allo stato attuale sono state indagate più di una persona, le ipotesi di reato sono truffa aggravata, esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. La procura di Pordenone, che è in stretto contatto investigativo con la procura di Treviso, confida nel senso civico degli investitori che si rivolgano agli organi di polizia giudiziaria per raccontare la loro vicenda al fine di fare ampia chiarezza sul caso. Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Un incidente ieri pomeriggio nel porto di Trieste. Un lavoratore dell'Agenzia per il Lavoro Portuale ha riportato traumi e probabili fratture a una gamba per essere stato investito da un roll trainer rimorchio a rulli che viene utilizzato per la movimentazione dei container. Il rimorchio ancora vuoto era appena stato agganciato da un trattore. La notizia è stata diffusa ieri in tarda serata dal coordinamento dei lavoratori portuali. E ora i temi del lavoro: l'acquisizione da parte della multinazionale Mondi della cartiera di Duino e lo sbarco di altri gruppi stanno rivitalizzando l'industria regionale, ma sono ancora troppe le incertezze su numerose realtà, specialmente nell'area giuliana. L'elenco si apre naturalmente con la Varzi, laddove le incognite mettono a rischio centinaia di posti di lavoro. Oggi la riunione con il prefetto sulla questione dei motori da consegnare a Daevo. La Venezia Giulia come un risico per le multinazionali straniere. A Bagnoli della Rosandra c'è la British American Tobacco che investe 500 milioni di euro in 20.000 metri quadrati. I loro vicini di casa, i finlandesi di Wärtsilä, invece, dopo anni, delocalizzano la produzione e lo fanno per assurdo, applicando alla lettera proprio l'emendamento contro le delocalizzazioni approvato dal governo Draghi nell'ultima legge di bilancio. A due passi c'è l'americana Flex. Sindacati e istituzioni dicono che le trattative sono andate bene e che con la prossima riunione del 5 settembre si metterà fine all'idea di delocalizzare in Romania. A 3 chilometri dalla Flex c'è la Tirso SPA, azienda triestina storica per la produzione di tessuti. Hanno tanto lavoro ma non ce la fanno a pagare le bollette e minacciano di mettere in cassa integrazione i 280 dipendenti dello stabilimento di Muggia. Saranno loro a delocalizzare nei loro impianti all'estero, Cina, Turchia e Portogallo. Chi non sembra preoccuparsi del caro energia sono gli inglesi della Mondi, che hanno acquisito l'italianissima cartiera Burgo di San Giovanni di Duino. Sono pronti a investire 240 milioni di euro. In Friuli la situazione è più serena, dice il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni. I lavoratori in cassa integrazione sono diminuiti rispetto agli anni passati. Questo è un dato significativo di come vanno le cose, ma in autunno ci attende qualche momento di tensione, dati i parametri economici e macroeconomici. Bonus e ristori possono aiutare nel brevissimo, ma per dare certezze alle aziende, il nuovo governo dovrà garantire il mix energetico, facendo accordi con Algeria, Azerbaigian, Qatar e credere davvero alle rinnovabili dando incentivi veri, conclude Nencioni. La Danieli sta lavorando intanto alla creazione del nuovo polo siderurgico con gli ucraini delle acciaierie di Mariupol. La giunta regionale ci crede e ha già formalmente destinato 20 milioni di euro per creare le infrastrutture a Porto Nogaro. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti sottolinea che l'attenzione delle multinazionali per il nostro territorio è un fattore molto positivo. Le attuali normative del nostro paese non mettono tuttavia al riparo da fughe improvvise, tutt'altro. Non c'è il rischio che gli stranieri vengano, godano dei nostri ammortizzatori sociali alla prima crisi e poi quando le cose si complicano scappano. Ma dipende dagli investitori, ci sono imprenditori stranieri e anche multinazionali importanti che non hanno nessun interesse a fare operazioni da rider, ma sono investitori seri, il più delle volte sono imprenditori seri e naturalmente il mercato globale induce spesso a fare delle scelte che territorialmente possono essere anche non condivisibili. Essere attrattivi per le multinazionali è un fatto assolutamente importante per la nostra regione in particolare, che viene ormai percepita come una piattaforma logistica di eccezionale valore. I porti, gli interporti, le reti che si stanno costruendo, la capacità di formare capitale umano. Provi a pensare al caso BAT. Il caso BAT non è un'industria che rileva un'altra industria magari decotta, è un investimento tout court originale fatto direttamente qui, proprio nella valutazione di tutti i fattori positivi che ci sono in quest'area. La nostra imprenditoria friulana o anche italiana ha meno forza di un tempo, secondo lei? Ci sono imprese italiane che comprano imprese straniere anche. Abbiamo delle multinazionali tascabili, come le chiamo noi, penso alla Brembo, penso alla Brovedani, tante altre aziende, penso a una grande azienda come la Danieli, plurilocalizzata. Ecco, ci sono delle realtà nostre che acquisiscono anche altre aziende anche all'estero. Oggi considero tutto quello che sta accadendo, fatto salvo il caso Wärtsilä, un segno della maggiore attrattività del sistema Friuli Venezia Giulia. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 7:28 minuti, il punto sulla pandemia: sono 1246 i nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore su poco più di 7400 test. Il tasso di positività risale quasi al 17% e aumenta anche l'incidenza settimanale, 355 casi ogni 100.000 abitanti contro i 330 di ieri. Il bollettino regionale registra 8 decessi, 6 a Udine e 2 a Pordenone. In ospedale sono ricoverate 221 persone, 4 delle quali in terapia intensiva. Ad estato scalpore un nuovo episodio accaduto a Casa Serena, struttura per anziani di Grado, dopo i maltrattamenti emersi alcuni mesi fa. Protagonista stavolta una operatrice assunta da pochi giorni. Fino a 4 mesi fa Casa Serena di Grado era considerata un modello nell'assistenza agli anziani, ma dopo i casi di maltrattamento del maggio scorso emerge ora un nuovo episodio che preoccupa i familiari degli ospiti. Un uomo di 91 anni accolto nella struttura 2 anni fa ha raccontato ai familiari in visita che, rapportandosi con un'operatrice sociosanitaria bulgara in servizio da appena 6 giorni, questa si dimostrava incapace di assisterlo per mancanza di lucidità e autocontrollo nei movimenti. Franco Dovier ha raccolto la testimonianza dello zio ospite in Casa Serena. Ha strattonato, lo ha fatto cadere, tant'è vero che mio zio ha staccato anche una maniglia della sedia. Poi sono rovinati a terra tutti e due. Secondo la casa di riposo dicevano che forse era ubriaca. 3 mesi fa nella casa di riposo, allora gestita dalla cooperativa lombarda KCS, le telecamere installate dai carabinieri del NAS di Udine avevano documentato dei maltrattamenti con 3 operatori denunciati e posti agli arresti domiciliari. Conseguentemente la giunta comunale aveva deciso di voltare pagina, modificando l'assetto amministrativo della residenza e costituendo una nuova società in-house, la Social Team, compartecipata dal Comune. Una decisione che è tuttora al centro di un acceso dibattito tra le forze politiche e la cittadinanza. Ma il presidente della Social Team, Salvatore Guarneri, precisa che l'ospite non ha riportato lesioni e che l'operatrice è stata immediatamente licenziata. Non vi è poi al momento alcun provvedimento giudiziario in corso. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. 10.000 incidenti in montagna in un anno, il dato, l'ultimo disponibile a livello nazionale, si riferisce al 2020, ma secondo le proiezioni quest'anno avrà un consuntivo ancora più pesante. Ancora troppi gli escursionisti che scelgono itinerari al di fuori della loro portata oppure senza attrezzarsi in modo adeguato. La nostra regione non sfugge a questo andamento e anche ieri c'è stato un intervento dell'elisoccorso per recuperare un ferito, un escursionista di 73 anni caduto fra i rifugi Lambertenghi, Romanin e Tolazzi in comune di Fornia Voltri. L'uomo ha riportato un forte trauma alla schiena. Conto salatissimo per 2 giovani writers di 21 e 23 anni ai quali le indagini delle polizie locali attribuiscono più di 650 imbrattamenti di muri, pensiline del bus e cassonetti fra Trieste e Muggia. Sono stati denunciati, rischiano una condanna penale e pesanti multe se si considera che il regolamento di polizia urbana prevede una sanzione di 3.000 euro per ogni scritta rilevata. Le indagini coordinate dalla Procura di Trieste sono durate 10 mesi, tra raccolta di testimonianze, esame dei social media e perquisizioni domiciliari. Ci spostiamo a Udine per fare il punto sui lavori di adeguamento antisismico delle scuole quando alla ripresa delle lezioni manca meno di un mese. Il servizio. Il piano di adeguamento sismico porta milioni e sicurezza nelle scuole di Udine. Conclusi i lavori all'elementare Alberti, mentre sono in corso quelli alla Pascoli, dove l'intervento è fissato in 2 milioni di euro. Un anno per la conclusione. Non ancora partiti invece quelli alla Dante, 6 milioni di fondi regionali. Per la palestra all'elementare Mazzini, stanziati 2 milioni ottenuti dal PNRR. C'è il progetto esecutivo, si attende la gara per l'assegnazione dei lavori. A Natale, alla Zorutti, dovrebbero essere completate le opere per 1.600.000 di adeguamento sismico, mentre alla Dorlandi ci sono stanziati 1.200.000 euro. Alla scuola Mediafermi l'attesa è per l'assegnazione dei lavori per 2.500.000 di euro, stessa cifra alla primaria di Topo Wasserman. Tra i progetti finanziati con i fondi del PNRR c'è anche quello per la costruzione di un nuovo complesso con un asilo nido e una scuola materna in via Adige. Finanziamento di 5 milioni di euro. Nidi, materne, elementari e medie del comune, che diventerà proprietario anche della nuova scuola. Parliamo però di un istituto superiore in via Aspromonte, ormai quasi finita. I primi studenti a frequentarla da metà settembre, quelli del Marinelli, il liceo scientifico, che poi sarà oggetto a sua volta di ristrutturazione. Scuola a impatto zero, che supererà il costo iniziale di 5 milioni di euro. Sarà in grado di ospitare in tutto circa 700 studenti. Augusto Viola, commissario, ente di decentramento regionale. Dopo 20 anni Udine ha una nuova scuola. Nuova scuola di 3.200 metri quadri per 700 studenti, che rappresenta quella che poi si chiama scuola Giolio, scuola Polmone, per consentire agli studenti del Marinelli, dello Zanon, del Malignani di trasferirsi lì nel momento in cui faremo dei lavori molto invasivi nelle loro scuole per l'antisismica, per l'efficientamento energetico. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A circa un mese dal rientro in classe, sono 20 i dirigenti scolastici assunti a tempo indeterminato nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. Vengono anche da fuori regione e firmeranno il contratto lunedì prossimo. Ma la sigla di categoria FLC-CGL non ci sta. I posti da dirigente scolastico da coprire infatti sarebbero stati in tutto 36, e con le 20 nuove assunzioni restano ancora scoperti 16 istituti scolastici, che non avranno quindi presidi titolari ma saranno affidati a reggenti. FLC-CGL ritiene che la scelta dell'ufficio scolastico regionale su quali scuole assegnare ai nuovi presidi e quali invece lasciare ai reggenti sia una decisione calata dall'alto, che potrebbe essere interpretata come un abuso di potere, si legge in una nota del sindacato, e sarebbe inoltre in contrasto con le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali. Il provvedimento dell'ufficio scolastico regionale ha invece ricevuto il plauso di altre sigle sindacali, in particolare ANP-CISL e SNALS. Abbiamo raccolto la replica della direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame. La decisione è stata motivata dall'interesse generale dell'utenza di garantire la copertura delle scuole che presentano maggiori criticità, dice Beltrame, e non di garantire gli interessi personali di uno o più candidati. È normale che i sindacalisti tutelino i loro iscritti, ma chi rappresenta l'amministrazione deve tutelare gli interessi pubblici generali, ha concluso Beltrame. Il prefetto di Udine Marchesiello ha riconsegnato al comune di Udine l'immobile della ex sede della prefettura dopo il trasferimento degli uffici in via Pracchiuso. Essersi riappropriati della gestione del palazzo del governo, ha detto il vice sindaco di Udine Michelini, fa sì che si possa utilizzare per altri scopi e funzioni. Puntiamo a valorizzare questo edificio e renderlo funzionale. La comunità ne ha bisogno. È ancora prematuro in questa fase parlare con esattezza di quello che faremo, ma abbiamo l'obbligo di ristrutturarlo, dato che fa parte della storia di questa città. Siamo alla pagina della cultura. A San Vito al Tagliamento sono in mostra le opere di 4 grandi artisti friulani provenienti in gran parte da collezioni private, e per la prima volta è possibile confrontare il lavoro e le influenze dei 4 durante un ampio arco temporale. Sentiamo. Si intitola Martina, Zuccheri, Tramontin de Rocco, Storie di pittura a San Vito. La mostra allestita all'antico ospedale dei Battuti, promossa dal comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con il FAI. Fino a domenica 28 agosto si potranno ammirare 110 opere provenienti da 13 collezioni private e una pubblica dei 4 grandi artisti friulani Umberto Martina, Luigi Zuccheri, Virgilio Tramontin e Federico de Rocco. La mostra, curata da Antonio Garlatti, Giancarlo Pauletti e Lodovico Tramontin, coglie il passaggio dei 60 anni dalla morte di Federico de Rocco e dei 20 anni dalla morte di Virgilio Tramontin. Uno dei curatori, Giancarlo Pauletto. I curatori hanno pensato che sarebbe stata anche un'ottima occasione per far vedere una cosa che non era mai stata vista, cioè mettere a confronto gli anni 30 di Martina, che è stato il maestro di Tramontin, ma anche il maestro di Zuccheri. Quindi tutta la mostra è costruita così. C'è una prima parte che comprende appunto opere degli anni 30 di Martina, di Tramontin e di Zuccheri, e questo confronto non era mai stato fatto. C'è una seconda parte che è tutta dedicata alla pittura di Tramontin, alla pittura perché è la parte meno nota, ecco, dell'attività di Tramontin, che invece è notissimo come incisore, e poi una terza parte che è dedicata appunto alla pittura di Federico De Rocco. Due delle opere di Federico De Rocco andranno alla grande mostra sulla pittura di Pierpaolo Pasolini, che si farà a Roma, opere nate qui e che sono una testimonianza assolutamente formidabile del nostro territorio. Andrea Bruscia, assessore alla vitalità. Questa mostra è un piccolo gioiello reso possibile dalla generosità dei tanti collezionisti privati che hanno messo a disposizione i dipinti e dai tanti soggetti che hanno contribuito a realizzarla, ed è la dimostrazione che unendo le forze nella nostra cittadina di San Vito al Tagliamento si possono fare grandi cose. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Cividale si presenta questa sera il libro Il Palio di Pierino, Appunti notturni di Franco Fornasaro. Il volume è un omaggio allo straordinario impegno sociale di Pietro Tolazzi, che l'autore definisce uno dei migliori cantori e interpreti della ripartenza culturale della città ducale. L'appuntamento al Teatro Ristori alle 20:30. E ora gli spettacoli. A Trieste, nel Parco di Miramare, debutta I segreti dei giardini dell'Arciduca, scritto e diretto da Paola Bonessi, produzione che conclude la rassegna Il Rossetti a Miramare, realizzata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo itinerante nel parco ed evoca la progettazione dei giardini da parte di Massimiliano d'Asburgo. A interpretarlo sono gli attori di riferimento del Teatro Stabile. L'inizio alle 19:30. Al via oggi fino al 28 agosto la prima edizione di Aquileia Young Festival, una manifestazione che nasce con l'intento di riportare in primo piano i giovani, rendendoli protagonisti e coinvolgendoli in una serie di eventi pensati proprio per loro. Dopo 2 anni difficili per le interazioni sociali a causa della pandemia, dicono gli organizzatori, si è voluto creare una nuova occasione di aggregazione e di relazione, non solo attraverso lo sport e la musica, e sono davvero tanti, infatti, i concerti in programma, ma anche a livello di impegno sociale e di informazione su temi della salute, della sostenibilità e dell'inclusione. Stasera l'inaugurazione alle 18 in Piazza Capitolo e poi This is Groove Immersive Edition, uno spettacolo multidisciplinare di musica, danza e arti visive. Abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Palaferri, organizzatore della manifestazione. Abbiamo un calendario molto ricco con ospiti non soltanto del Friuli Venezia Giulia, ma che arrivano anche a livello nazionale. Sicuramente l'artista di punta che avremo all'interno del festival è Benji. Sarà una serata talk mista a dei live, parleremo appunto di tutta la sua vita, ma soprattutto il focus è presentare ai ragazzi presenti quelle che sono un po' le esperienze di vita di un artista che ha fatto questo tipo di percorso. Quindi è partito da YouTube, è arrivato ad un successo internazionale con quello che è il cinema. Nelle altre serate ci sarà un po' di tutto, da spazi per band emergenti, come avremo sabato 19 a domani, questo spettacolo si chiama This is Groove, con ballerini, musica e arte visive, fino a dei talk di sensibilizzazione, come ad esempio quello del 23, dove parleremo non soltanto appunto di arte e musica, ma anche di quelle che possono essere problematiche sociali relative al mondo dei giovani. Poi ci sarà anche sport, un sacco di ospiti, quindi un festival sicuramente da non perdere. Per chi vuole approfondire, le pagine social sono super attive. Perché un festival dedicato ai giovani? Ma perché è sicuramente importante sensibilizzare quello che poi sarà il futuro del nostro pianeta. Quindi la prima cosa è dare spazio ai giovani, alle idee dei giovani, al mondo dei giovani, ma allo stesso tempo dargli anche poi quella che può essere un'esperienza di chi prima di loro è passato attraverso alcuni punti per fare la propria carriera in qualsiasi ambito sia, e cercare comunque di dargli un certo tipo di imprinting per poi magari diventare quelli che saranno i prossimi futuri genitori. Come mai un festival dedicato ai giovani nella regione più anziana d'Italia come il Friuli Venezia Giulia? Il motivo è proprio cercare in qualche modo di aggregare le diverse generazioni, perché io che sono dell'80 mi ricordo che una delle cose più belle era quella di passare il tempo insieme a mio nonno e ai miei genitori a parlare di quelle che erano le loro esperienze di vita, e questo credo sia molto importante per quelle che saranno le future generazioni, per quanto siamo molti meno magari i giovani rispetto agli adulti e agli anziani, c'è bisogno comunque di dargli voce, dargli spazio, oltre al fatto di dargli la possibilità di acquisire delle nuove informazioni. 7.42, la musica, concerti di questa sera, ultimo appuntamento estivo per Note del Timavo, Tango da pensare al Castello di Colloredo in Monte Albano, alle 21 di scena il quartetto contemporaneo con Gianni Iorio al bandoneon, Rocco Roggia al violino, Carla Agostinello al pianoforte, Roberto Dalla Vecchia al contrabbasso. Il concerto sarà dedicato ad alcune delle composizioni più interessanti di Astor Piazzolla. Prosegue il Festival Carni Armonie, questa sera a Sauris di Sotto suona la violinista Miriam Dal Pozzo in un concerto dal titolo Ballata per violino solo sulle note di Tartini, Bach e Bieber nella chiesa di Santo Svaldo alle 20.30. A Lignano Sabbiadoro in Sala d'Arsena alle 21, concerto per trombone e pianoforte con Sergio Bernetti e Franca Bertoli. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Tomadini di Udine, dove i due protagonisti insegnano. La cultura e le tradizioni del territorio saranno protagoniste anche quest'anno del Festival dei Cuori, uno dei pilastri folclorici della nostra regione. Palcoscenico della rassegna saranno Tarcento, Gemona e Udine in Friuli e Bovez in Slovenia. Da oggi fino al 23 agosto danze e musiche provenienti da paesi e culture differenti si riverseranno per le strade delle quattro città, intrecciandosi nell'anima friulana in uno spirito di amicizia, solidarietà e tolleranza. Si inizia questa sera alle 21 a Tarcento, al Parco Vivanda. Il responsabile e organizzatore della manifestazione, Massimo Boldi, ci ha raccontato il programma di questa 52esima edizione. Avremo presenti gruppi provenienti dall'Albania, dal Brasile, dalla Colombia, dalla Georgia, dall'Italia, dalla Nuova Zelanda e dalla Spagna e dall'Uruguay. Gli appuntamenti sono ovviamente quelli della serata inaugurale di giovedì 18 a Tarcento nel Parco Vivanda e quelli poi prestigiosi a Udine nella Piazza del Castello alle ore 21. Il sabato 20 agosto saremo a Gemona nell'anfiteatro di Via Dante, dove ci sarà anche lì l'esibizione di tutti i gruppi partecipanti. La domenica è la giornata più ricca, dove alle ore 11 al Duomo di Tarcento ci sarà la Santa Messa con tutti i gruppi in costume. A Palazzo Frangipane l'incontro dei gruppi con le autorità locali e alle 19.30 in via Roma, Piazza Libertà, avremo la serata dell'amicizia. Lunedì la carovana del festival si sposta in Slovenia a Bovec, che è gemellata con Tarcento, dove ci sarà alle 20.30 in centro città l'esibizione dei gruppi, e martedì avremo alle 18 a Palazzo Frangipane una conferenza con il tema conoscenza del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, i Tomat, le maschere e linee del Tarcentino fra tradizione, folklore, nuova vita a cura di Luigi Reveland. Poi alle 21 al Parco Vivanda la serata di chiusura del 52esimo Festival dei Cuori. Lo sport, c'è accordo tra Udinese e Atalanta per il passaggio di Brandon Soppi nella squadra allenata da Gasperini. Il club friulano avrà 9 milioni di euro più uno di bonus. Il giocatore invece avrà un contratto fino al 2026, quello iniziale da più di 500.000 euro a stagione. Per Sottile un problema in più però, la fascia di destra. Dopo la partenza di Molina, ora in quel ruolo, rimane a disposizione solo il ventenne Ebosele. Quanto a Udogi, definita la cessione al Tottenham per 18 milioni di euro, ma il giocatore resterà in prestito a Udine ancora per una stagione. Sabato contro la Salernitana, nel debutto casalingo dei bianconeri e Friuli, sarà in campo insieme al recuperato Arslan. E domani mattina l'Udinese effettuerà l'allenamento di rifinitura a porte aperte per una sorta di abbraccio simbolico fra tifosi e squadra. Nuovo acquisto per la Triestina Calcio, arriva il difensore centrale Matteo Di Gennaro, 28 anni, la società labardata lo ha acquistato a titolo definitivo dall'Alessandria, ha giocato anche con Renate e Livorno, ha all'attivo 75 presenze in Serie B con 4 reti e quasi 150 gare in Lega Pro con 9 reti. La specialità dei tuffi dalle grandi altezze debutta agli europei. Oggi il primo dei 3 giorni di gare, durante i quali ogni atleta eseguirà 4 tuffi, le donne da 20 metri, gli uomini da 27. E tra gli azzurri ci sono 2 atleti della Triestina Nuoto, la 21enne Elisa Cosetti e il 18enne Andrea Barnaba. Elisa è quasi una veterana dopo l'ingresso dello scorso anno nel circuito internazionale. Per Andrea invece quello di oggi, inizio alle 18, è l'esordio in una competizione ufficiale. Lo abbiamo raggiunto al telefono per chiedergli intanto qual è il suo obiettivo minimo. le aspettative ci sono e non ci sono, perché essendo la mia prima gara competerò con i più forti al mondo e quindi io, avendo iniziato da molto poco, cercherò di fare il meglio possibile, però sarò contento in qualunque occasione. Finora azzurri straordinari agli europei, questo vi mette un po' di pressione, cosa si dice nello staff? Sì, un po' di pressione ci mette, anche perché diciamo che vorremmo mantenere alto il nome italiano. Come sempre cercheremo di fare il meglio possibile e poi vedremo come andrà la gara. Si riesce a distinguere tra l'adrenalina della gara e quella dell'altezza? Sono 27 metri, lo ricordiamo. Diciamo che l'adrenalina è veramente moltissima, sia quando ci si tuffa, anche negli allenamenti prima della gara sono stato sempre sotto massima adrenalina, difatti ero proprio super eccitato, anche in gara sicuramente sarà molta di più, però cercheremo di trasformarla in emozione. E Andrea, a casa cosa dicono del fatto che ti butti in pratica da un palazzo di 8-9 piani? All'inizio erano veramente spaventati, mia mamma non voleva neanche vedere i video di me che mi tuffavo. Però dopo un po' hanno iniziato a farci l'abitudine, adesso sono molto contento, infatti sono venuti anche oggi a vedermi e quindi sono fieri alla fine. Un altro triestino cerca un risultato di prestigio agli europei di atletica che si stanno svolgendo a Monaco di Baviera, si tratta di Max Mandusic, che questa sera sarà impegnato nelle qualificazioni del salto con l'asta, la prova comincia alle ore 10.50. La pallacanestro Trieste punta sullo statunitense Phil Fain, 25 anni, 206 centimetri. Sarà lui il nuovo centro della squadra di Marco Legovic e alla società biancorossa. Le sue credenziali tecniche e caratteriali hanno suggerito di proporgli un contratto biennale. Nell'ultima stagione Fain ha giocato nella massima serie tedesca, a Gießen, con una media di quasi 9 punti e 5 rimbalzi. In precedenza, dopo gli esordi con Illinois nel campionato universitario statunitense, ha giocato in Argentina e Finlandia. Così il presidente Ghiacci, che dice: oltre che un ottimo atleta, sappiamo che è anche un ottimo ragazzo con la testa sulle spalle e che vive molto positivamente lo spogliatoio. Alle 7.49 minuti in questo istante siamo alla rassegna stampa. Truffa delle criptovalute, indagati e perquisizioni, titola in prima il Messaggero Veneto del Friuli. Finora nell'inchiesta coinvolte 6 persone. La fotonotizia ricorda i 10 anni dal duplice omicidio dei coniugi Burgatto, il delitto che sconvolse il Friuli. In taglio alto il professor Barbone, capo della task force regionale anti-Covid, spiega come è cambiato il virus. Oggi colpisce gli anziani già ammalati. E poi il nodo lavoro. Ci sono 10.000 posti disponibili, ma non si trova il personale. Nella cronaca locale a Udine, nuovi investimenti per pronto soccorso e terapie intensive. In un'abitazione in via di Toppo, i ladri mettono a segno un colpo, furto di denaro e gioielli per 15.000 euro. A Lignano un 65enne deceduto per un malore mentre faceva un bagno in mare. Poi un intervento del soccorso alpino a Forni di Sopra, salvato escursionista bloccato sulla cascata a 30 metri d'altezza. La truffa delle criptovalute titola anche sul dorso della destra tagliamento, a centro pagina una fotonotizia sulle preoccupazioni degli ambulanti del mercato di Pordenone, incontreranno il sindaco Ciriani. In cronaca locale domani a Stevenà di Caneva, l'addio al giovane morto nell'incidente stradale a Godega di Sant'Urbano pochi giorni fa, quindi l'addio a Friuladria, la banca viene definitivamente incorporata in Crédit Agricole. A Pordenone infine piazza Risorgimento diventa sede di eventi estivi. Il piccolo torna sulla raffica di incendi boschivi delle scorse settimane. L'incuria, la colpa, il dolo, 34 inchieste. Questo è il titolo in prima pagina. Le procure di Trieste e Gorizia sono al lavoro. Per i vigili del fuoco prevalgono le cause accidentali, ma ci sono 5 casi sospetti. Ampio rilievo in prima anche all'approfondimento sullo sport di base. 10.000 atleti si sono allontanati dallo sport per colpa della pandemia. Ora parte l'operazione di recupero da parte delle federazioni. Nella cronaca cittadina su Trieste l'annuncio dell'incontro della delegazione coreana in prefettura sui motori Varsila per Daewoo, e poi l'ascito di Margherita Hack al comune. È stato costituito il comitato di esperti che catalogherà i 18.000 volumi dell'astrofisica. C'è poi l'annuncio delle nozze carsiche che tornano dopo l'emergenza Covid. I protagonisti del matrimonio in costume, Dana e Ivan, hanno aspettato 3 anni, andranno all'altare il 28 agosto. Edizione di Gorizia e Monfalcone, cronaca locale che trova spazio in prima pagina. In 6 a processo per la vernice che finì in mare durante i lavori a Monfalcone sulla nave da crociera Carnival Horizon nel 2018. A Gorizia intanto si attende il nuovo parco della Valletta del Corno. Il piccolo fa il punto sui lavori per quello che sarà il nuovo polmone verde della città. Anche il Gazzettino di Pordenone titola sull'indagine sulle criptovalute. Nel capoluogo della destra Tagliamento individuato uno dei presunti procacciatori, ma tra i soci è sparita la maggior parte della documentazione. La fotonotizia ci parla del grande caldo di quest'estate a Pordenone. A luglio sono state registrate le temperature medie massime più alte di tutta la regione, lo ha certificato l'ARPA regionale. In cronaca locale, emergenza abitativa tra sfratti e interventi a Sacile, a Fontana Fredda. Dai controlli su IMU e TASI risultano 255.000 euro di arretrati, mentre a Pordenone è pronto il piano della viabilità per il nuovo ospedale. Vediamo il dorso di Udine del Friuli. Nel capocronaca del capoluogo si parla del recupero urbano delle aree dismesse, i tesori da riscoprire dalla ex Bertoli Safau all'ex birrificio Dormish. La giunta Fontanini scommette sul futuro della città. E poi il caso dei segretari comunali, una figura che manca in 160 comuni della nostra regione. Gli ultimi 10 che hanno vinto il concorso hanno rifiutato il Friuli Venezia Giulia. A Cividale tutto pronto per celebrare il santo patrono Donato. Il 21 agosto torna il palio e colore il centro città. A Lignano, Ferragosto senza eccessi, tanti controlli ma poche multe. Prima dell'annuncio dei nostri programmi radiofonici vi ricordiamo, vi diamo invece, scusate, notizia di un appuntamento di questa sera a Gorizia, dove torna Canta Quartieri, l'appuntamento che valorizza le più belle voci del territorio esontino, una manifestazione molto sentita a livello locale che è organizzata in collaborazione con il Comune di Gorizia e che nell'ottica della Capitale Europea della Cultura 2025 presto diventerà transfrontaliera. L'appuntamento di stasera è poi il 22, il 24 e il 29 agosto, sempre alle 20:30, è nel giardino di Palazzo De Grazia. Altri appuntamenti di oggi per gli incontri con l'autore con il vino a Lignano Sabbiadoro. Alessandro Mezzenalona presenta il suo ultimo libro L'amore danza sull'abisso, un racconto tra giallo e noir che ha come protagonista Italo Svevo, al Pala Pineta, ore 18:30. Nuova puntata anche per il Festival Avostanis a Villa Caccia di Lestizza. Alle 21 sarà in concerto il gruppo Braul. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata. Alle 11:10 in friulano la replica di due puntate delle prediche del Sacrestano. Alle 11:20 trasmetteremo Vintage di e con Carlo Muscatello e Leonardo Zannier, un viaggio nella memoria in bilico fra passato e presente. Gli ospiti di oggi saranno Monio Vadia e Marzia Postogna, entrambi attori, cantanti, registi, con le musiche di Loredana Bertè, Milva, Billy Joel, James Taylor, Edith Piaf, gli Eagles e Lucio Battisti. La fascia pomeridiana dei programmi radiofonici ci comincerà alle 14. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Riccardo Ostoi, ci ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali, sono le 7:55, ci risentiamo più tardi con la prossima edizione. Grazie per l'ascolto e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.